ciao, come va? Eccoci. No, no, io sono ascolto dall'altra parte, ma ti sentito. No, no, c'era musica, qualcosa del genere, non so. Yappa, yappa. Sta funzionando questo 430, sì. Scusa, ma stavo chiamando sull'altra. Hai detto se sta? Si sta funzionando questo 430, sta andando, sì. Sì, sì, sta andando, e come? Non vedo, non accendo. Va bene, continuo allora, beh, io sono in ascolto. Sono in ascolto e sto facendo cosa, l'altra è spenta, quindi te la accenderò un po' qui. Sì, anche la mia è spenta perché è occupata in un altro servizio. Cioè, meglio, è accesa ma è occupata su un'altra. Ehi, ehi, ehi, va bene, dai, ci sentiamo dopo, già sono qua in ascolto all'inizio. Ok, a dopo, Giafra. Sì, ok, a dopo, fra. Non rispondo perché c'ho lo squarcio molto alto a volte, e quindi passano i segnali oltre al 9, perché sennò mi tra fischi, fischiette e trombette non si capisce un po'. Vabbè, io spero di essere oltre il 9. Ciao, ci sentiamo dopo. No, per 120 anni. Va bene, dai, a dopo ti lascio fare, ciao. Ciao, ciao, ciao, a dopo. Yeah, I'm right.